Hanno! siamo quindi già stai uscendo lo stesso. Avanti Nattarino, lo senti Angelo da Alghero? No, ti ho detto che non lo sento, né Angelo né Riccardo, è troppo bassa l'antenna che ho io, dai. Cos'è che ha comprato Riccardino che non ho capito? Ciao Angeli, forte e chiaro qua. Nattarino, secondo me anche il vento mi sta dando un po' fastidio. Ma io li sento entrambi, dai. Ma tu hai l'antenna diversa. E poi sei in alto, io sono in basso e ho l'antenna bassa. Ecco perché non arrivano qua. Ah, sollevo il volume io per Nattarino, dai, aspetta. Anche io, però io sono così col telefono, perché al lavoro mi chiamano due secondi, dove sei, dove non sei, fai in fretta, muoviti, che dobbiamo fare un'altra consegna, sempre così. Quando arrivavo a casa mettevo il telefono nella cassetta e chiudevo, non volevo più sentir parlare il telefono. E infatti gli amici mi dicevano se ce l'avevo per sopravvivere il telefono, quando chiamavano non mi acciappava le mani. Tutti quei forum dei baracchini, Radio CPK, c'è un baracchino che non ho mai visto in vita mia, bello, una stazione pace, mai visto in vita mia, secondo me è roba di fuori, non lo so, da una parte sembra praticamente un preside, dall'altra c'è la colonia, uno spintero ben grande, bello, veramente bello oggi. Thank you. che ha gli strumenti grandi, eccetera, eccetera. Sì, sì, è bellissimo. Le manopole cromate, eccetera, eccetera. Adesso glielo mando a Angelino a farglielo vedere. Aspettando un attimo che sono al Natalino, ci sei? Eia! lascia il ghetto, ti fate chiamarti che già ci sono. Ti ha sentito per un attimo, per me se sei passato in un punto dove era libero e ti ha sentito al ghetto. Su che canale stai, Angeli al ghetto? E oggi è sempre sul 10. Se capita nella tua zona ti chiamo, ha detto Angeli. Tutti così ne piacciono a fare di cose, di affa 21, capito? Gli piacciono le robe antiche. Kappa. Spero un attimino che ho sentito che c'è un messaggio. Speriamo che adesso è chiaro. Anche io, ma non su tutti, su certi. Mi piace molto lui, sa. Thank you. poi se non c'è il mare, è normale. Io sono qui. Se tu stai lavorando, cosa non ti disturbiare? Se parlate senza di me cosa succede? Mi hanno portato l'altro lavoro già, già faccio, lo rifiuto. No, per carità, nessuno ti sta facendo quello. Però la giornata anche io gliela sono fatta. Se mi recupero i soldi del baracchino, con questi lavori che me lo compro. Che non ti rubi gli come ti rubi io? Così me lo compro, se mi danno l'ultimo busseggio. Ciao. Però volevo cavagata. Ma quale ti prendi? Quello digitale? Se mi danno già. No. Io mi vorrei prendere l'altro. E quale già? Era 3.009, quello che non è digitale, quello manuale. Ah, no, capito. Dov'è che l'hai trovato? Che sito l'hai trovato? Quello 6.009? Sono in bello, qua anche tu. No, a me digitale non mi piace, non mi piace di più normale. Mi piacciono di più, non mi piacciono quelli che hanno menu, 4 menu, 7 menu. Una volta con i posti, mica devi stare sempre nel menu. Già lo so. Buono Natale. Vedi, come che deve stare sempre nel menu? Tu entri una volta solo, quando hai di regolare qualcosa, e buh. Una volta che è impostata. Tu riconosce bene tutti quegli apparecchi. Cosa Natale, scusa? Riconosce bene Marco tutti quegli apparecchi. Ah, per qua può. E K, ce li ha tutti. Sì, Angelio, ci sono, ma sto smontando un computer. Angelino, ci sei? Thank you. hanno questa voce la messaggia in stazione, capito? Sento un passo, quasi non ti sento. Avanti, Riccardo. Ok, ciao Claudio, ben seguito, mi ha ascoltato. Anche io sto usando il MPQC, quello comprato oggi, da Cusano. Gianni? Dimmi. Lo sai che ho una voce di stazione base. Vabbè, non mi interessa, perché ormai ho già questa idea tra un po'. Ho visto la stazione base uguale alla tua, però è un altro marchio, è la Fayette Truss, che è registrato quasi uguale anche alla stessa Tourneco. Ma non è uguale, non c'ha frequenzimetro quello, il Petrus non c'ha frequenzimetro. Una bomba! Ho visto. Ok, ciao Claudio, già avevo detto che ci stai sovrammodulando, sì, io con qualcun altro, forse eri tu. Stavo dicendo, anch'io ho comprato l'MP5 da Cusano, il microfono. Sì, da Cusano l'ho preso stamattina e ha fatto lo sconto. Sì, lo so, mi sentivo basso, infatti. Va bene, cambiamo il piano di room. Aspetta, guarda una cosa, Riccardo, continuate pure tra voi, dai. Allora, dettaglio MP5, 74,16 viene su internet, 74,16. Ecco, ho visto anche che stavano vendendo le MP9 a poco, e ho visto che ha due cose in più, praticamente ha il Echo integrato e il Roger Beep disattivabile, però non è molto interessante, a me no, non me ne fa niente dell'Echo e del Roger Beep, quindi meglio che se no prendo le MP5. Poi quel microfono fuggire è molto più forte, lo sai, basta fare una modifica, c'è da fare un ponte e togliere quella roba di latta che c'è attorno e metterci al posto di quello lì, metterci opaca. Capo, mi ha detto Claudio che un giorno quando faccio la Roberto la metto in aeroporto, il microfono mi fa la modifica per andare molto più forte. Te la fa Roberto? No, Claudio Salviero. Comunque, sa, mi ha mandato anche il video di quel colpo, ho visto funziona benissimo, tutto funzionante, le maniglie cromate, il microfono originale, anche il cavo originale mi sembra, è tutto. Adesso attacco quello che non piace a te. Cosa non ho capito? Adesso attacco quello che non ti piace, te lo faccio sentire. Sì, lo so che non ti piace la 48, però se senta non mi piace. Ho visto anche così, così tante leggende che c'erano alcuni che lo modificavano davanti ed era molto brutto. Forse l'originale esteticamente è un po' più bellino. L'ho modificato con così disegni strani, non mi piace molto. Vabbè, sono gusti. Per continuare, Claudio, ci sei? Daniel Peruma mi ha mandato le foto alla sua stazione. E la foto bella è che c'è anche questa alla 48. Ed è tutto modificato, i disegni e ha dei disegni davanti. Attenzione, Riccardino, cambio! Qui si mi abbasseri proprio, me! Ok, ciao! Fatti la lecce, sole! Gianni, sentite, poi... squallo. Aspetta, guarda se è buona la radio. Sì, è buona, eh. Oh, a parte la risata, è poco bamba. Sono tutto io. Fate secondo te se... Sei... Sì, to, sul 3 più 30, sì, è matta per la scenda. Ecco, la mia radio è così, se la vuoi è così, se no te la cambi. Allora, vero. Gianni! Sì, Nara, dice che sono alto. Attenzione, Tore Squalo, sei gruppi doppio room, cambi... Ammazza di rivali, aga. Da sempre complificato. Sai con quanto sto uscendo io? Come va? Ah, è un microfono che alzo. Ah, il baracchino che va bene. Attenzione, Riccardino. Questo è l'Alan 48 che ti ho fatto vedere. Questione di gusti, Riccardi. Invece a Chioda Arrugginito gli piace l'Alan 48, vero Chioda Arrugginito? E di questo te ne innamori. C'ha tutto, c'ha tutti i tasti illuminati in blu, poi quando fare diventano rossi, lo smitter blu, i canali blu, tutto, davanti c'è la bandiera americana. Poi era nuova, ne aveva due, tutte e due nuove, Claudio. Ok, prendo io, sì, anche secondo me, come dici tu, Claudio, il microfono, come sto dicendo, sto facendo a mio. La 1, 2, 3, prova. Lato normale. Sì, so cosa c'è, nel BB più 5. Per me c'ha troppi bassi, quella... prova a abbassarli un po' i bassi, guardati la regolatore di adesso e poi abbassali, vediamo un po' se esci più chiaro. Con il mic gain e il microfono devi regolare i bassi, tu i bassi li devi abbassare e alzare gli alti, gli acuti. Gianni, se posso, ma tu perché hai una 5 ottavi, vero? C'è una 5 ottavi, la game master. Se uno che cosa, i bassi, e alza, metti gli acuti più alti. No, era andava meglio prima, mettila come era prima, però è la tua voce sicuramente che è baritonale, di quelle bu, di quelle grosse. Adesso va meglio, però ti devi staccare un po' dal microfono, secondo me è quello, prova a staccarti un po', e vedi, adesso va bene, forse ti avvicinavi troppo al microfono e uscivi strano. Adesso la mia radio com'è, bella? Ma gli ho abbassato i watt, sono a 1 di watt. Appalai, ho capito. Adesso come vado? 1, 2, 3, ora. Allora, vedi, sono in watt, l'ho messa a 5 watt, adesso va meglio. No Riccardo, ma invece a Chioda Arrugginito sì, perché ha la voce più baritonale, tu ce l'hai più voci bianche, sì, dai. E ho visto il tuo cavallo, che bello che. Lo so, abbiamo due. Comunque quello che hai visto, quella macchina racconta. Quello lì è quello che ci va lunghe. Pagappa, ci assomiglia molto. Lo so, sono due cavalli americani. E poi ne abbiamo un altro che è una puledra, non ce l'ho riposto adesso, è una puledra un po' più piccola e abbiamo salvato il macello, voleva non farvi le fettine. Vedino. Possibile. Che cosa gli è successo? Non lo so, aveva due punti bianchi, due punti piccoli bianchi sulla pelle e da quelli qualcuno che parla nel sottofondo, chi è? Avanti. Dore, avanti. Bello, ce la sono qua. Ce la sono qua. Belli, belli cavalli. Che belli sono, tutti gli animali sono belli. A me piacciono più gli animali delle persone. Mi aggeri. Era Tore, non lo so se l'ascolti Alghero. Tore, vai per Angelino, vedi se ti ascolti. Ciao Angelino, mi ascolti? Mia, com'è la radio, Angelino? Allora, come va, ti sono? Aspetta. Da l'uomo, Angelino, guarda adesso. Cavagara, meglio di prima. Attenzione, Angelino, se ascolti il doppio ruolo, cambi. Questo è una chicca. Pensaci. Io ne ho per tutti i gusti. Papà, ti ascolto, puoi chiedermelo anche tu, dai. Ti ascolto, buonasera Roberto. Andate. Attenzione, binario 10, cambi. Tu andavi a rassazione, andavi. Esatto. Perché parlando sta malghetto? Ora? Ora? Ora? Ora? Attenzione! Ora? Ora? Attenzione Angelino, cambi ora. No, stavo guardando la cosa, stavo controllando le stazionali. Sì, perché ho abbassato un watt adesso, aspetta con un watt esco così forte. Boh. Infatti poi di modulazione ti sale 12. No, è vero, se no te lo faccio vedere. Aspettami, mentre parlo ti faccio il filmato. Ah, va. E ogni tanto bisogna attaccarlo, ma a me non è che mi piace assai un po' disturbare. Questo lo dovevo mettere nella macchina, ma poi avendo la macchina nuova a fare il buco dell'antenna, tutto tanto, no. Perché poi magari la gente scompare e ti rimane chissà cosa se sta trattando. Ci metti la calamizza. Quella magnetica a me non mi piace, grazie a tutta la cappotta. Non è vero, non è vero, io ce l'ho. L'ho messa tante volte, gli devi mettere un pezzo di scottici sotto, gli metti, c'è la gomma, io ce l'ho con la gomma sotto, gli metto lo scottici e lui non si graffia la cappotta. L'apparato ce l'hai fisso? No, il coso no, è smontabile, c'ho 1000, 8-9 Pavlove uso, con microfono a coso, a, come si chiama, auricolare. K. Come va a voce, dai? Cioè, funziona da solo, senza toccarlo con le mani né nulla. E come la radio, come esce? Aspetti, te la faccio sentire. Sì. Cavolo, quindi c'è tutto volante. A me quello che non mi piace è avere la roba volante in macchina. Mi piace fare un impianto che non si veda nulla, come ce l'avevo nell'altra macchina. Dentro il cassetto, chiudevi il cassetto e non si vedeva più nulla. Non si vedeva niente, c'avevo capi grossi e buco, me l'aveva fatto uno che piazza di stereo a Sassari, che fa le, prepara le macchine per le gare, le macchine per le gare stereo che fanno in piazza Vessi, e tutti gli impianti li fa lui, e mi ha fatto il buco, me l'ha fatto bello centrale, mi ha messo un antirruggine attorno, l'ha fatto bene, là. In più il filo prima di chiudere il cielo, perché ne ha tolto il cielo, là tutto quanto, tutto ricoperto di un nastro gommato, con la, c'aveva anche, come si chiama, la gomma a piuma, in modo che se si muove non fa rumore. Ecco. Avanti Fabrizio, buonasera. Ciao Gianni a tutti, ti stavo ascoltando, chiedigli a quella persona se mi conosce. Gianni? Sto uscendo, sì. Ciao Fabri, sì, che sto uscendo. Ciao Luca, Gianni non ha risposto. E se non mi sa un baracchino. Gianni è sparito. Ehi, atto. E sto uscendo con questo. Qua passaggio. Da vedere, 1, 2, 3. Insomma, un po' così, là, già si capisce. Non è questa grande radio. Perché questo è auricolare, sto uscendo, esiste forse con questo. Ah, auricolare c'è. Cioè. Ho capito. Vabbè, là, non è che sia, ripeto, questa grande radio, poi la gente ascolta. Dove? Già. E dimmi. Domani mattina ci sei? Sì. Dimmi l'orario, così mi trovi qua, perché vado presto a fare la spesa. E tu vai a fare la spesa, poi dimmi più o meno a che ora ci sei, non ce n'è problema. Ciao a tutti, ciao. 8:30, 9:15. Ci sei, 8:30, 9:15. Sì, sono a casa a quell'ora lì. Ok, dai, allora scendo a quell'ora, mi viene meglio, così poi vado direttamente in ufficio. Ok, to, riporto domani mattina. Ciao Claudio. Ciao Ricca. Ciao. A tutti buonasera. Capito mi hai detto? Sì, già ti ho capito, sì. Sentiamo domani mattina. Se sei in frequenza anche stasera. Siamo lo stesso. Brice. Oh, non ho voglia di uscire stasera. C'è un vento terribile, poi c'è un... Non sono stato bene, c'è una colite allucinante. Ero sdraiato, mi sono stato adesso. Va bene, dai. Ok, già ci vediamo domani mattina a quell'ora, 8:30, 9:15. Ah, va benissimo. Ti lascio e vedi tu, capito? Gianni, che sei? Scusami Fabrizio, ma si è staccato il coso, non riuscivo a parlare, dai. Mi si è staccato il microfono che l'avevo collegato posticciamente senza avvitarlo. Avanti Fabrizio. Detto, chiedi a Poddi che bene se mi conosce. A chi? All'Angelino? Io oltre che questo qui prima, a parte che facevo il giudice di ascolto di quelle gare, ho fatto le gare a livello nazionale, io facevo impianti ma a livelli anche un po' più altini del tuo amico, già lo sa lui. Ma è amico mio, ho pagato io, ho pagato per fare il lavoro, sì, Poddi che... Già sicuramente lo so, perché tu me l'avevi anche fatta vedere, quella di tua moglie che avevi fatto, che avevi fatto tutte le bombature negli sportelli, me lo ricordo. Vecchio hobby. Va bene. Ascolta, Riccardino, ci sei? Mi senti? Sì, ci sono. Ciao Fabrizio da questa parte. Perché non inizi ad ascoltare anche qualche altra frequenza e inizi a farti un'idea di cosa c'è oltre la 27? Saluto. Riprendo io, così ascolti qualche cos'altro, capito? Perché almeno parli qua e ascolti da qualche altra parte e ti fai un'idea di cosa c'è oltre la 27, che magari ti potresti interessare anche a qualcosa un po' di diverso. Tanto qua prima o poi sono tutti vecchi qua, non li guardare così, sono tutti vecchi, tanto prima o poi ti lasciano solo, A voi, non sono tutti vecchi. Vabbè, ma vogliamo giovani. Devi rubare a noi quelli giovani, lasciali stare. Mi sa che più giovane sono io, Fabri qua, più giovane di tutti voi. Ah, c'è Angelino, a parte vabbè, Riccardino che è nuovo. Sono io il più giovane. Riccardino è il più giovane qua, sì, forse Luca è il più giovane. Io, vabbè, anche io non sono più ragazzino, anche io sono più o meno l'età vostra, cioè forse qualche anno in meno di qualcuno, ma più o meno siamo lì, No, anzi, di qualcuno sono anche molto più grande. Sì, vabbè, di me sei molto più grande, mio ne avrei 52, 53. E 51. Ah, allora me ne superi, io ne faccio 46, 5 anni me ne superi. Sì, 5 anni, via. Capitano, Riccardi, così devi fare, ho presto io un ricevitore, un apparecchio HF per ascoltare, quando ti prendi l'antenna come si deve, poi già te lo presto io, non ti preoccupare. Ok, grazie. Sì, guarda che ti stanno chiamando, è basso basso, ma ti stanno chiamando. Gianni! Dimmi, Fabri! Mandagli il mio numero di telefono a Riccardino, che gli mando un paio di fotografie, magari lo faccio invogliare. Come il mercato acquisti, che si acquistano i giocatori, che se li rubano uno con l'altro. Ehi, dimmi. Aspetta che abbasso lo squelch. A me sta chiamando? Aspetta che magari Claudio lo sente meglio di Nelly. Attenzione Roberto, mi senti? Stanno mettendo il portante. Ciao Roberto, sì, adesso ti ascolto senza nessun problema. Roberto, lavorando su un apparecchio ho fatto tutte le modifiche degli effetti speciali di un 48. E adesso sta lavorando sulla scheda a canali, ma questo c'è un emulatore, questi qua, ce ne sono alcuni che hanno degli emulatori, e sto pensando di cambiarlo e mettergli il PLL direttamente, fare una modifica ancora più grossa. Mi sono preso la pentola, ho preso un po' di materiale di elaborare uno di questi 48, ci sto lavorando, ma è lungo, sarà che non avevo mai fatto, quindi ci devi studiare sopra. Sicuramente chi li fa non sa nemmeno, va lì a occhi chiusi, tu non saldi i fili e fa, però te lo devi studiare. Sto impazzendo sulla scheda a canali, perché è diverso un po' dagli altri questo apparecchio, probabilmente dovrò cambiare, diciamo, al posto dell'integrato PLL c'ha un emulatore che li montavano, dice di spostare lì una resistenza, ma secondo me è lui che sta creando problemi, solo che non si trova, non trovi qualche apparecchino vecchio per recuperarlo. A te Roberto. Livelli abbastanza alti e io sono stato audiofilo da bambino, ho sempre ascoltato con impianti valvolari quando ancora non erano in auge qua, poi hanno iniziato, però li ho sempre ascoltati in una certa maniera. Poi io provengo dal mondo dell'alta fedeltà del domestico, da ragazzino mi sono buttato sulle macchine, ho avuto anche un buon maestro, qui te lo conoscono, che è un grande amico, Mario Nottari, e mi ha un po' intradato su alcune cose, poi ho iniziato a lavorare, ho iniziato a fare gare a livello nazionale, e poi ho mollato, la verità, poi ho mollato, Poi da grande, posso dire che c'era un lupo, quanto c'è mio figlio, c'ha forse 15-18 anni fa, ho ripreso da grande, perché da grande ho ripreso un attimino a fare qualche impianto, ho preparato una macchina, l'ho portata, mi ha appassionato, ho fatto i corsi e sono diventato giudice di ascolto. E poi ho iniziato a fare impianti nuovamente, diciamo che quasi sempre vincevo quando andavo con la macchina. Perché devi avere l'orecchio, è inutile andare lì, a parte le conoscenze, devi avere l'orecchio per tarare, perché la macchina è veramente un problema tarare le macchine. E poi io ho mollato nuovamente, perché ormai sono troppo tempo a portar via, dai. E mi sono buttato su questi hobby, ho ripreso la radio che avevo abbandonato e l'ho ripresa circa 10 anni fa e ho ripreso a giocare con le radio. Anche quello è fisso, vabbè, se le hai, se non fa niente. No, Vanni, ho controllato, come dicevo io, ho praticamente tutte le